E come avevo promesso, siamo tornati proprio con Machine Fabric insieme a Marissa Nadler, un disco veramente strepitoso, non tutto con Marissa Nadler, comunque parte insomma dei Machine Fabric che già ci hanno dilettato nel corso degli anni con lavori veramente superlativi per quanto riguarda l'ambient, il noise, il field recording, tutto quello che poi anche la suggestione, se vogliamo, anche la riflessione, perché no, del mondo digitale, anche l'espressione appunto digitalizzata di certo rumore, di certo rumorismo che appunto è diventato anche noise, che in questo disco White Voice, appunto, con in questo caso con la voce di Marissa Nadler, addirittura si esprime su questi momenti e movimenti anche elettroacustici decisamente evocativi. La voce della Nadler senz'altro porta insomma a evocare una sorta di fata in un bosco, appunto tra l'ancestrale e invece quello che è il dato tecnologico anche di Machine Fabric, con questi echi, una sorta appunto di fata che diventa anche forse un po' strega poi in alcuni momenti, e forse ricorda anche così una delle figure probabilmente più importanti in questo senso femminilità, che riesce a prendere sia un aspetto che l'altro, quindi sia a come dire far incantare che invece fare appunto paura, soprattutto insomma a noi maschietti, ecco, detta come va detta, la splendida musa poi veramente non solo di Warhol, non solo di anche se per un piccolo cameo di Fellini, insomma la fantastica Nico, che sicuramente riecheggia soprattutto in questa versione anche abbastanza inedita della Marissa Nadler, ma è così così ispirata nel senso appunto di andare oltre anche la forma già trasognata di molte sue pezzi e diventare una sorta insomma di canto esoterico, se vogliamo, appunto con tutto quello che soggiace, ecco, per molti aspetti insomma dentro la voce e dentro appunto la costruzione di Machine Fabric. E per continuare quello che è il percorso appunto di questi speciali archivi di 451 frammenti sonori in compagnia ovviamente di Max Macchia, ovviamente insomma poi bisogna vedere anche se è ovvio o meno, Paul Hines insieme a Carla Bley e John Oswald, Paul Hines collaborò con Carla Bley per lo storico Escalator of the Hill, disco del 1971, uno dei dischi fondamentali per quanto riguarda una certa composizione che andava poi a creare una dialettica veramente inedita con invece il mondo dell'impro, una sorta di appunto di dialettica che attraverso uno scontro e attraverso poi una sintesi trova sul serio non solo un momento, ma vari, forse tutto il disco, anzi senza forse, trova veramente un'espressione decisamente superiore anche molto rispetto a altri lavori legati a quello che era il post-free, o anche alla certa composizione, visto che si va anche a trovare certe forme di psichedelie e certe forme anche di prog che diventa però appunto cosa inaudita per tanti versi, appunto con il jazz, con appunto il mondo variegatissimo della jazz composer orchestra, quindi veramente punte di diamante di grandi autori, musicisti, da cui appunto è passato anche Paul Hines, più legato alla poetry, che comunque occasionalmente poi in questo caso che andremo a sentire una sorta di Carillon con Carrabley e John Oswald, quindi immaginate già un po' cosa possa uscire. John Oswald, una sorta di giocherellone che gioca tanto con l'elettronica quanto con l'elettroacustica in generale, anche con prandofonie e con appunto mondi che vengono a crearsi attraverso accostamenti anche piuttosto assurdi. E poi un altro momento, così, che possiamo dire appunto da uno speciale archivio Regina Music Box che andremo a prendere da questo piccolo gioiello che è Machine versus Music, esatto, proprio le macchine contro la musica. Capirete anche immediatamente perché, appena partiranno appunto i pezzi di Paul Hines, Carrabley e John Oswald, e poi appunto di Regina Music Box, tra l'altro anche piuttosto brevi ma intensi nel loro farsi, appunto decisamente vaghi e così anche idilliaci poi per certi versi. Ebbene, ascoltato quindi questi due Carillon da una compilation che riesce a prendere quello che è il gioco, una sorta di appunto di divertimento legato proprio all'utilizzo della macchina in termini musicali, ma anche viceversa, cioè quindi riuscire poi a ribaltare la situazione, e quindi appunto quel versus machine versus music ci dà appunto una sorta di elemento in più rispetto non soltanto appunto alla una sorta di appunto di meccanica e di meccaniche anche se volete della musica, ma anche di musiche che poi appunto si spostano in un altrove e che per quanto possa partire appunto da macchina diventa probabilmente umano più dell'umano, quindi un po' un gioco che porta a un ribaltamento anche molto interessante. D'altronde poi le musiche di Paul Haines, più che altro le parole di Paul Haines, però in questo caso le musiche con Carla Bley, John Oswald e appunto questo Regina Music Box, come d'altronde potremmo fare anche lo stesso discorso con Renko Shah che ci porta appunto in un mondo sì, molto, molto lontano, talmente lontano poi da appunto non farcelo sembrare completamente alieno, o forse per quello insomma alla fine diventa ci abituiamo a una sorta di appunto spostamento musicale attraverso appunto la macchina e la rielaborazione appunto di questa, e quindi magari diventa familiare o perlomeno diventa accettabile, come dire, un suono appunto che potremmo considerare momentaneamente alieno, ma poi, come abbiamo sentito appunto sia con Funny Bird Song e con Weaver Blatt, non lo è affatto. Questo invece è Sweep appunto da parte di Renko Shah. We'll be right back. personaggio veramente eccezionale, quello di Rem Koolhaas, a parte emerito, potremmo dire, professore universitario ad Amsterdam, dove si occupa soprattutto di linguaggi legati al calcolo algoritmico e appunto elaborazione appunto poi attraverso appunto il calcolo, in questo caso appunto dato dall'algoritmo, di linguaggi che sono anche quelli musicali, in effetti, oltre che essere appunto uno studioso accademico e anche una sorta di inventore di macchine che appunto lavorano in maniera automatica, ma poi appunto data dalla complicazione del calcolo, ecco, quindi non semplicemente con un automatismo meccanico, ecco, piuttosto risaputo, anche se poi potremmo tornare indietro e pensare insomma alle prime pianole ad esempio meccaniche, addirittura con strumentista anche meccanico che si muoveva, cose che suscitarono insomma grande scalpore e poi di fatto insomma hanno per molti versi aperto a quello che poi è stata l'immaginazione appunto della musica meccanica che poi diventerà elettronica nel corso del tempo, quindi facendo appunto calcoli su calcoli e portando quella meccanica non a un livello visibile, diciamo, analogico, ma appunto di digitale. E poi appunto con processi anche piuttosto interessanti, piuttosto anche complessi, personaggi come Rem Koolhaas riportano appunto l'utilizzo anche della stessa meccanica, se voi andate a vedere qualche immagine appunto delle performance di Rem Koolhaas, vedrete appunto anche l'utilizzo ad esempio della chitarra nel 1982, Machine Guitar, è proprio quello, è una macchina chitarristica appunto che viene percorsa attraverso appunto calcoli algoritmici, quindi da creare movimenti sonori in effetti difficilmente decifrabili, ecco, non sicuramente legate a quello che è un percorso che dalla chitarra rock o anche jazz, se vogliamo, ci porta appunto al mondo consolidato, se poi appunto anche psichedelico, anche impro, eccetera. Qua si va appunto su un qualcosa che viene costruito appunto attraverso un linguaggio assai complesso, che però appunto suona, come accennavo prima, non proprio così alieno, o forse appunto è talmente alieno poi da farcelo appunto assaporare direttamente come e quindi non potendo riflettere sulla composizione, la prendiamo direttamente. Ovviamente c'è anche questo effetto paradossale che potrebbe essere dentro le musiche di Rem Koolhaas e dentro appunto i suoi speciali archivi che questa sera appunto passano da 451 frammenti sonori. E Rem Koolhaas comunque prende per molti aspetti sia da David Lussier, che si è occupato tanto di quello che erano appunto anche effetti elettroacustici, anche psicoacustici legati agli spazi. Qua c'è più forse il discorso proprio di utilizzare meccanicamente appunto delle strumentazioni tramite appunto calcoli, ma sicuramente un altro dei grandi maestri, perlomeno insomma aprendo quello che potremmo considerare musica spaziale, ma non nel senso di cosmo, ma musica appunto che interagisce con lo spazio, perché no, anche appunto quello spazio mentale appunto legato al calcolo. Ma appunto vi invito comunque a cercare delle immagini di Rem Koolhaas per vedere anche proprio in termini proprio spaziali, fisici, che cosa avviene, o perlomeno insomma che cosa si può intuire dalle foto. Poi probabilmente c'è anche qualcosa di video ben a cercare. È uno dei grandi maestri, oltre al già citato Alvin Dussier, potrebbero fare vari di citazioni. Beh, non può essere che Doc Stader, che andiamo a sentire con un pezzo che già la dice lunga su quello che è l'invenzione, l'inventiva di Todd Doc Stader. Il pezzo si chiama Drone, ma così uno potrebbe anche pensare, cos'è che si è inventato, visto che da anni si parla di drone. Beh, no, siamo nei primi anni 60. Todd Doc Stader. Todd Dockstader, Drone, beh, un pezzo che oltre titolo ovviamente anticipa, è chiaro che dobbiamo spostarlo, insomma, di quasi 60 anni rispetto appunto a quello che siamo abituati in termini del Drone, ora appunto ad ascoltare musiche con il bordone continuo, tendenzialmente elettronico, ma non solo, insomma, qua c'era ovvio dentro uno dei grandi punti di riferimento delle musiche concrete, che si stanno spostando poi verso quelle che diventeranno quel concretismo rumorista industrial. Probabilmente per molti aspetti Todd Dockstader è stato un padre delle musiche industriali e di un modo di intendere il suono concreto in maniera piuttosto potente, se pensiamo insomma che tante volte i Pansonic, Mika Vine in primis, hanno parlato appunto di Todd Dockstader come uno dei loro maggiori punti di riferimento, quindi attraversamento anche fisico che Todd Dockstader portava dentro le macchine, riuscendo appunto quasi a creare, prima che poi facessero questo Pansonic, perché ha avuto insomma modo di vederli dal vivo, quella sorta di interazione che è anche scontro tra uomo e macchina, quindi un disegno futurista con appunto questa lotta che c'è ed è molto creativa in termini appunto di suoni, di creazione in generale di mondi diversi legati appunto a un'organizzazione evidentemente insomma altra di musica che diventa suono e di suono che appunto prende valore per se stesso, quindi non più soltanto come discorso appunto d'organizzazione dentro l'ambito musicale, perlomeno fino insomma, se pensiamo insomma per secoli si è ragionato così, quindi Todd Dockstader insieme a altri pionieri delle musiche elettroacustiche, elettroniche, sperimentali in generale, ha creato in effetti un linguaggio, o forse anche distrutto per molti versi, è quello che era appunto un linguaggio secolare legato appunto alla composizione musicale. Qua si parla di suono e anticipa anche per molti versi quello che sarà appunto il vero e proprio Drone, perlomeno per come lo conosciamo ora. In effetti c'erano varie stratificazioni di Drone in questo pezzo del 1962. E per finire con questi speciali archivi di 451 frammenti sonori, tiriamo fuori un personaggio strambo che passava dalle parti, pur essendo svizzero, di San Francisco verso insomma la Ralph Record, e quindi quei folli geniali dei Residents, è passato da una formazione che appunto è stata per molti versi scoperta dai Residents nel senso di uscita discografica, quindi di editing, anzi più che di editing, proprio di produzione musicale, e quindi anche appunto di conoscenza da parte insomma non soltanto del giro Ralph residenziano, ma anche con un certo insomma riscontro per quanto riguarda, forse qualcuno avrà più o meno capito di Yello, anche riscontro appunto in termini di fama, comunque fuori anche dal appunto degli ambiti delle musiche sperimentali. Lasciò gli Yello a Carlos Peron, di lui che stiamo parlando, e metteremo appunto un paio di estratti per concludere questi speciali archivi. E, beh, nell'84 appunto lascia l'Iello, ma già parallelamente appunto a discografia già piuttosto interessante, soprattutto per i primi tre dischi notevolissimi di Iello, beh, se ne esce con nell'81 con Impersonator, disco veramente folle per molti aspetti, con una sorta di proto IBM, Electro Body Music, un industrial che va verso sentieri piuttosto indefinibili, anche con sprazzi di una sorta di ambient, però molto insomma negativa, seppur con poi anche risoluzioni piuttosto surreali, quindi si perde anche quella vaghezza nera per diventare qualcosa di insomma nebuloso più che altro, surreal nebuloso, ecco, potremmo definirlo così se me la fate passare, ecco, ma in genere me ne fate passare, no, le cose, se ne ascoltate insomma Max Macchia, sapete insomma che ogni tanto ci si spinge, ogni tanto per modo di dire, quasi sempre. E comunque Max Macchia appunto vi saluta, vi rimanda al prossimo 451 frammenti sonori che dedicheremo tra l'altro a Pier Antonio Pezzinga, come facciamo ogni anno da queste parti, con tra l'altro concerto dedicato a lui da quelli di Area Sismica, insomma con compagni di viaggio e non solo quello, da un bel po' di anni appunto di 451. E vi rimando appunto a dopo, insomma, Ponti, Pontarelli eccetera eccetera, per l'8 maggio mi pare. Ciao e fate i bravi nel frattempo, Carlo Speron. Thank you.